sentire ogni cosa. Quando ogni mia caduta è stata troppo profonda. Cos'è questo balena? Cos'è questo balena? Cos'è questo balena? Cos'è questo balena? Cos'è questo balena? Cos'è questo balena? Inspiegabilmente portare.